All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, bentornati alla cena dei regini speciale Halloween. Applausi! Modestamente, in questa serata dedicata all'orrore, ci ritroviamo tutti assieme per festeggiare il rito di Halloween, che rappresenta la serata dedicata alla paura. Ok. Partiamo subito con una pausa musicale e noi iniziamo a spizzicare la nostra cena. Ragazzi, alla cena dei regini, bentornati alla nostra tavola. Fate come Jason, visitate www.ilbac.it, cliccate la cena dei regini se volete contattare con noi, commentare insieme questa puntata e anche ascoltare le puntate precedenti. Vero Jason? Yes! E allora continuiamo con quello che sta succedendo a Laos. Sta succedendo ovviamente di tutto come se ogni settimana. Abbiamo accettato la sfida del fantasma del Regino Medio. Infatti, abbiamo fatto la puntata speciale di Halloween. E quindi le cose possono procedere bene. Anche Jason approva. Possiamo procedere ai lavori fatti a Laos, un Laos totalmente rinnovato nella struttura e anche nella sostanza, che comunque ci occuperà un mesetto di tempo per essere costruita, ragazzi. Tra l'altro, anche grandi novità. Ringraziamo Grazie. gli ascoltatori della Cena dei Regini, tantissimi, sempre di più, e stanno dando anche successo al programma che sta avendo nuovi riscontri. E quindi adesso un piccolo spazio musicale, una pausa musicale assieme e ci ritroviamo subito. Sorridi alla telecamera. E ragazzi, bentornati alla Cena dei Regini. Avete visitato www.tubac.it? Avete cliccato a Cena dei Regini? Potete commentare assieme a noi la puntata, ascoltare le puntate precedenti e commentare gli ospiti, ad esempio, di questa sera. Sono con noi, ci sono venuti a trovare i Plug Out Ed, applausino. Iniziamo un po' a scoprirvi con un breve riassunto della vostra storia, ragazzi. Chi siete e che definizione date alla vostra musica? Allora, siamo Plug Out Ed, come detto, ci siamo formati da poco meno di un anno, Quindi circa febbraio 2013. Giovanissimi. Sì, abbiamo cominciato un po' come tutti, facendo cover, partendo dai Nirvana, passando dal punk, sì, Sex Pistols, Clash. Sì. E dopo abbiamo cominciato a scrivere i primi pezzi. Abbiamo scritto un paio di pezzi e allora abbiamo deciso a quel punto di diciamo, di orientarci ai pezzi inediti. Sì, ci siamo iniziati a vedere praticamente a casa mia, nella mia stanza, in una specie di sorta di sala improvvisata, e abbiamo iniziato ad arrangiare questi primi pezzi e a portare avanti anche i pezzi che avevamo composti da prima, perché quando abbiamo anche il gruppo cover band abbiamo appunto avevamo già scritto dei pezzi che poi abbiamo portato, che abbiamo definito con questo progetto Blackout Dead, che è partito da febbraio. E appunto ci siamo iniziati a vedere nella mia stanza, ad arrangiare questi pezzi, a provarli, a mettere in gioco le nostre idee, i nostri pensieri. Bello. Quindi poi, musica inedita, totalmente inedita, appunto proprio ciò che sentiamo pezzi. Noi diciamo nella musica, cioè da questo incontro nella stanza di Davide è nato Can't Get Enough. Sì, sì, esattamente. Il vostro primo singolo che avete pubblicato adesso, e tra l'altro in cui avete anche pubblicato un video su YouTube cliccatissimo, in cui avete coinvolto anche artisti reggini come Antonio Iello, ricordiamo, dalla regia. Come è nato, che percorso ha avuto la lavorazione di questo video, di questo singolo? Allora, praticamente, vabbè, il pezzo è nato quando appunto ancora eravamo una cover band, infatti è stato il primo pezzo che abbiamo scritto insieme. Sì, è nato sì, sì. Il primo stato. E come ha detto Davide, è nella sua stanza, proprio è stato il primo pezzo che abbiamo composto. Sì. Mentre per il video, beh, è una sorta di, diciamo, di storia della canzone, la storia della canzone. Niente, abbiamo coinvolto un po' tutti, amici, conoscenti, ci siamo ritrovati molto, sì, ci siamo appunto fatti, è stata una cosa molto bella, perché comunque comunque abbiamo organizzato di fare questo video, abbiamo innanzitutto allestito una serie di set improvvisato nel garage, abbiamo dipinto le pareti piene di graffiti tutti colorati, abbiamo anche dipinto il nostro logo, e poi l'ha fatto un altro artista reggino che salutiamo, Agostino. E praticamente appunto ci sono, abbiamo chiamato un po' di amici per farci aiutare, anche i protagonisti del video che sono Max e Maria Grazia, e appunto abbiamo quindi improvvisato questo set, questa storia, diciamo la trama, e se non sbaglio era il 13 agosto, quindi temperature glaciali, diciamo, abbiamo iniziato le riprese di questo video. Ed è stata un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo proprio visto la partecipazione di molti ragazzi che sono venuti ad aiutarci, un'esperienza proprio unica per noi. Ma il punk come idea nasce da questa voglia, diciamo, di ribellione. Nei giorni nostri, cioè in questo presente che viviamo noi, c'è ancora la possibilità di sorprendere chi ascolta con la musica? In che modo assecondate questo desiderio di ribellarsi, di cercare di sconvolgere, diciamo, tra virgolette, l'ascoltatore? Allora, secondo me, comunque, allora, già innovare la musica, nel senso creare qualcosa di nuovo, è molto difficile, perché per l'appunto i giorni nostri, tipo, le canzoni si assomigliano tutte praticamente, è difficile, noi comunque ci proviamo. Per quanto riguarda il punk, ecco, noi sì, ci definiamo punk rock alternative, ma preferiamo, è giusto per dare un input, però ma non ci piacciono le etichette, noi non abbiamo un genere, scriviamo quello, sì, scriviamo quello che sentiamo, noi dobbiamo, noi cerchiamo di sentire la nostra musica in generale, quindi prima di tutto è un discorso abbastanza soggettivo, intimo. Poi se chi ascolta la musica si riconosce nella musica che facciamo, ben ben, cioè vuol dire che in quelle ore che abbiamo passato in camera mia non certo. Casseggiavamo, non facevamo qualcosa. Stavamo facendo. Esattamente. Giustamente. Ma adesso una domanda su di voi, diciamo, come singoli, come persone, non come semplicemente artisti, perché comunque quando si sente questo genere di musica un po' più, diciamo, accelerato, tra virgolette, si pensa a quei ragazzi, Cristino, Srucidi, Fatti, no, vabbè, che vanno in giro con la vestaglia di casa, insomma, queste persone così. In che modo sentite attuale questi eccessi, se li sentite anche vostri, e in che modo voi interpretate questo stile di vita? Allora, intanto parlo dal punto di vista personale, cioè non artistico. Allora, secondo me, per quanto mi riguarda, la musica non è apparire, cioè uno non deve, se facciamo una canzone punk non vuol dire che dobbiamo avere la cresta, il giubbotto, di jeans. Cioè ognuno ha deve avere un proprio stile, senza emulare altri artisti a cui comunque possiamo ispirarci. Quindi per me l'apparenza non conta quando si fa musica. Per quanto riguarda la ribellione, ecco, siamo in un paese dove per l'appunto ci vorrebbe, diciamo, una rivolta, una ribellione, sia per la situazione in cui ci troviamo, certo. Però, cioè, secondo me può partire anche dalla musica, ma non è necessario, nel senso, noi non facciamo solo quel genere di punk, comunque quel genere di canzoni dove ispiriamo a ci parliamo di noi stessi, quindi l'artista non è più quello che si fa 20 km di moto, scrive una canzone, birra, alcol. Cerchiamo anche di divertirci, ognuno sì. In generale, questo. No, non dobbiamo fare quella cover band Beatles di cui abbiamo parlato. se non c'è queste cose. Ragazzi, io chiedo sempre una cosa a tutti gli artisti, in particolare a Regini, che partecipano alla cena. Cioè, nel contesto attuale, in quello che comunque la città vive un momento di abbastanza, chiamiamola sofferenza, se foste voi il sindaco di Reggio Calabria per un giorno, quale idee dareste alla città? Cioè, cosa fareste? Plug out Ted, sindaci per un giorno... Se guardo te sono sindaci per un giorno, faccio una lezione di chitarra gratis per tutte e sesso pratico per tutti, lì obbligo. No, votate, votate. Vabbè. Scherzo! Per parlare seriamente, no, secondo me la situazione Regina è una situazione un po' strana. Diciamo, da un lato troviamo appunto questa difficoltà che hanno tutti i gruppi reggini come noi, appunto sia nel proporre la propria musica al vivo, perché gli spazi sono molto pochi, i locali anche sono molto pochi che offrono appunto spazio studente, poi la musica inedita, diciamo, è difficile, e soprattutto la fatidica domanda che fa sempre il gestore locale al gruppo che va a chiedere la serata è: quante persone portate? Esattamente, quanta gente porti? E non è, secondo me non sono comunque le domande da fare subito, cioè nel senso, nessuno viene a chiedere che musica fai, il significato della tua musica in generale, quindi è tutta una cosa commerciale. Esattamente. E poi da un altro... soprattutto sì, è più difficile per gruppi inediti. Sì, soprattutto per perché la musica perché magari inedita. Le cover ovviamente è anche una cosa pratica, vengono di più. Perché giustamente tu sai già, se io vengo a fare Beatles, però, come sì. Oppure Ramones, cioè, io so già se mi piace, se non mi piace. Quindi la gente è anche chiusa in questo senso per il mio, perché comunque, cioè nel senso, io le cover già le so, io conosco certo. Già quel gruppo, quindi dovrei anche tra virgolette aprirmi a nuove, cioè anche nuovi generi, nuove canzoni, nuovi pezzi, dire magari quel gruppo vado a sentirlo, mi piace o non mi piace, invece di dire magari fa pezzi io non lo so, giustamente non lo conosco, e sì, quindi certo, chiudi. Però ci tengo comunque a dire che appunto non bisogna fare tutta l'erba un fascio, perché noi abbiamo avuto riscontro dove nella scena Regina ci sono delle realtà, dei ragazzi come noi, ma tantissimi altri ragazzi che hanno voglia di fare, voglia di esprimere la propria arte in generale. Chiaro. Quindi secondo me, se quello che fossero sindaci per un giorno, dovrebbero cercare appunto di alimentare questa attitudine, no? Questa realtà. Quindi tramite l'arte. Sì, esattamente, sì, sì. Di cercare di ampliare, diciamo, questo giro di gente che organizza concerti, di gente che va ai concerti, anche perché questo è un problema della scena Regina, che molta gente ormai, non che ha perso la voglia, però è come se si è assopita, diciamo, proprio per uscire e andare al concerto. Ormai se io organizzo una serata, magari per far venire, cioè, le persone devono andare a chiamare i miei amici, venite, invece... Magari lo fanno anche come favore, voglia di sentire. Una cosa spontanea, uscire e andare a divertirsi e continuare un concerto. C'è stato un musicista reggino, però, tempo fa, che disse che per un musicista reggino andare a un concerto di un amico è come andare a un funerale, perché sono quelle cose dove tu vai perché... Per andare, ti dicono è successo che faccio la serata, vieni e tutti vanno. Perché... Questo è il discorso. Poi appunto si crea questo circolo vizioso, che è comunque una cosa che accade sempre in queste realtà. Chiaramente. Ragazzi, dita incrociate per voi. E adesso ci sentiamo il loro singolo. Che hanno chiederà? Che loro lo sanno dire bene. I Plug Out Ted. E facciamo un applausino. Ragazzi, bentornati alla cena dei Reggini. Visitate www.ibac.it, cliccate la cena dei Reggini per commentare questa stranissima puntata e ascoltare anche le precedenti tutti assieme. Adesso passiamo al tradizionale angolo della nostra classifica. Per questa occasione particolare, le 10 cose da non fare se ti trovi in un film horror. Partiamo dalla numero 10. Non comportatevi da ragazzone all American, cioè il vero ragazzo americano che si è in tutti i film col felpone, lui ragazzo molto prestante, eccetera, perché viene trucidato praticamente per primo. Un grande classico, no? L'abbiamo visto praticamente in tutti i film horror, questa non ti preoccupare, ti salvo io, amore, e poi finisce male. Ma soprattutto al numero 9 Hitchcock insegna: non fatevi la doccia nei motel, come la mitica scena della doccia. È ospite della trasmissione anche lui, cara, ci vediamo dopo. Alla numero 8, non fate mazzi di chiavi troppo ingombranti. Questo vale anche nella vita reale, però. Quando tu ti fai la chiave il mazzo, che ti serve, ti fai il mazzo nella e poi non la trovi mai, eccola là. Non fatelo, non fa questo qua, morirà in un'apocalisse zombie. E invece io mi salverò perché avrò l'Andreina al fucile con me, nel mio team. E sparo, Guardalo, guarda come è guerriero. 75% su 4 team. 75% di colpi riusciti alla sua festa di compleanno abbiamo fatto. Evviva! Abbiamo scoperto un'arma anti-zombie in Andreina durante la sua festa di compleanno, abbiamo fatto un piccolo tiro a segno, un 75% di colpi riusciti, e quindi giustamente la ragazza è fiera di sé. Ci credo. Voglio dire. E t'ha fregato un po' di clienti. Alla numero... Ho sparato anche a lui, ho sparato. Di rimbalzo, no. La cosa migliore. Non dovevamo ricordarlo questo episodio, però vabbè, la tralasciamo. Sono le nostre feste un po' pazze all'Aus. Alla numero 7, non scappate verso l'alto o verso il basso. Rimanete dove siete. Perché? Perché non si scappa né verso l'alto né verso il basso? Perché in basso ci sono i bassi fondi, in alto ci sono i solai. No, quindi? Perché semplicemente e quindi non può uscire dalla porta. Perché di sotto, non perché si può sotto? Uscire e di sopra neanche. Da dove scappi? No, perché c'è la classica scena dell'inseguimento dei film horror che finisce sempre male. È un classico, quando scappano lungo le scale, alla fine vengono sempre beccati. E se stavano lì invece che... Vengono beccati lo stesso. No, diventava un film di combattimento e vinceva. E se sono sotto il letto? Alla fine vengo beccato sempre. Ti beccano nel sequel, però, del film. Sì, dei passi felpati che si avvicinano al letto. No, si vede la scena da sotto col mostro che cammina davanti al letto. Alla numero 6, non tornate indietro. Perché non bisogna tornare indietro, ragazzi? Perché indietro ci tornano solo i colpevoli. Ci tornano i gamberi. No, perché indietro ci tornano. Perché cambia il paesaggio. Cambia il paesaggio. Cambia il paesaggio. Sì, cambia. Ce n'è uno là, quello là che era Estro, se non sbaglio. Quello che tornava indietro, però oggi anche con il tondo. Figo. Sì, perché dietro purtroppo c'è sempre l'assassino che ti insegue e c'è anche Tiziano Ferro. Non devi dare informazioni a loro, che sono le vittime dei tuoi film. Cioè, voglio dire, tu fai la parte del carnefice. Lo so. Alla numero 5, altra scena di inseguimento, non giratevi. Non giratevi. Perché? Perché inciampare. Perché è classico inciampare. E poi perché quando ci si gira vi si viene sempre beccati. Si viene sempre? Beccati. E se cammini lo stesso, guardi indietro così, corretto. No, ragazzi, è la dinamica del film horror. La dinamica di film horror è che durante la scena devi spostare gli occhi e guardare con la visione panoramica. No, neanche. Devi andare giù pesante a correre. Correre dove? Che se uno si può andare, non si può andare. Ma non corre intorno allo stesso momento. Ragazzi, secondo me quello ci vede che sto girando intorno, mi fermo. Siete voluti andare in un film horror e allora ve lo beccate. Scusate, cioè, mi sono sembrato colpo in terra, mi sono spaccato al ginocchio. Hai visto? Hai capito, ragazzi? E c'è tutto un ginocchio. Alla numero 4 mi ha preso un braccio lui, ma prima ma sarei per futuro. L'hai salvato tu. Sì. Allora, non facciamo pubblicità. Alla numero 4, non siate uomini di colore, un grande classico. Sì, sono quelli che muoiono per primi. Questa la sanno tutti. Gli uomini di colore muoiono per primi nei film americani. Leggenda vuole che c'è comunque la necessità di impiegare un uomo di colore per un fatto di empatia, diciamo, con gli altri, però vengono brasati quasi subito solitamente gli altri film. Sì, che falsa qui. Però quella di motel, no. Cioè, uno deve puzzare perché uno film nello motel non può fare la doccia. Non ti devi fare la doccia, ti puoi fare il bagno. La doccia è la mitica scena della doccia, ai tempi. Quella infatti lui sta appunto. Capisci? Non dare suggerimenti. L'angolo della classifica è una cosa seria, Gesù. Non fare così, altrimenti chiamo Freddy. Chiami questo qui. No, lui è un discorso a fare. E poi. È lei veramente un bisogno. È una scusa, Alla numero 2, ragazzi, non dividete. Questo è un classico, si dividono e muoiono sempre. Bravo. Se si stanno invece uniti, muoiono tutti insieme. Però felicemente allegri in compagnia. No, ma se tu sei assieme, si sviluppa quell'empatia per cui magari ti salvi, capisci? Sì. E invece se ti dividi, se stanno nella squadra del nero muoiono. Non si dice nero, si dice nero di colore. Al numero uno al numero uno non dimenticate la revisione, è questa. Perché le macchine si bloccano sempre. Dilla tu la revisione, non dimenticate la revisione. Ah, la revisione della macchina? Perché? Senza freni. Perché? Normalmente si finisce senza freni. Oppure? Che esplode la No, senza freni è il thriller. Quando stai guidando e d'improvviso, oh mio Dio, non freno più la macchina! E muori comunque. Da però dietro ti esce l'assassino e ti accoltella. Perché? Non parte la macchina. Esatto, e quindi bisogna fare la revisione. Il classico, tu salti dentro la macchina, cerchi di accendere la macchina, ti guardi in giro e non c'è nessuno, da dietro i sedili si alza lui, non si sa come è entrato, e t'accoltella. Questo dice, era di serie, me lo porti dietro alla concessionaria. Te l'hanno regalato insieme alla macchina. Ecco, ragazzi, perché costava così poco. Perché c'era annesso l'assassino apposta per questo motivo. Ragazzi, quali sono le cose che voi non fareste all'interno di un film horror? Scrivetelo a cena@ilbac.it subito, immediatamente, e lo commenteremo nella prossima puntata. O forse no, perché voglio dire, può essere che non ci arriverete alla prossima puntata. Lo so. E adesso una piccola pausa musicale. Liberi siamo noi che combattiamo per gli ideali, liberi siamo noi che ci chiamiamo come i temporali, liberi siamo noi che scriviamo sui giusti giornali, liberi siamo noi che non ci travestiamo ai carnevali mai. Liberi siamo noi che ricerchiamo la nostra terra, liberi siamo noi che la troviamo appesa ad un ferro, liberi siamo noi che pensiamo di aver sempre perso. Liberi siamo noi quando ci va il vostro sputo per traverso. Liberi siamo noi quando non rispondiamo alla violenza con la violenza. Liberi siamo noi quando rispondiamo alla violenza con un elegante avanzo. Ho nostalgia delle cose che poi io riderò. Ho nostalgia di quando che consolerò. Ho nostalgia dei fratelli che strangolerò. Io ho nostalgia delle mogli che ammazzerò. Schiavi noi quando la nostra donna festeggia marzo. Schiavi noi quando noi scegliamo da soli. Schiavi noi quando ci chiamano schiavi. Schiavi noi quando non alziamo la voce mai. Schiavi noi se crediamo che esistano poteri buoni. Schiavi noi se non ci sentiamo mai per questo coglioni. Schiavi noi se crediamo che esistano poteri buoni. Schiavi noi se non ci sentiamo mai per questo coglioni. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini, un angolo. Poteva essere il loro ultimo applauso, quindi io l'ho lasciato fare, ovviamente. Passiamo a un angolo del tutto speciale, eccezionale per questa cena, un giochino che si fa in comitiva molto particolare, e ha il dolcissimo nome di Gianni Bunny Contest. Lo conoscete? Lo conosco, però non sapevano di parteciparvi, perché voglio dire, è fantastico. E quindi una alla volta uno di loro dovrà mettere un marshmallow in bocca e recitare la frase, non so qual è la frase, però ho capito in senso. Detta la cena dei regini, perché voglio dire, dobbiamo fare pubblicità, il programma deve andare avanti. Non è io House of Buck. No, no, no, la cena dei regini, così. Quindi io voglio dire, la cena dei regini. Esatto. Così uscire. Mischiando le carte. Mentre teneva il microfono. È solo una leggenda metropolitana che ho diffuso io per spaventare. Va bene, ragazzi, iniziamo da Brandon Gazzan. Il tuo nome. Grand. Primo. Cani bagni. Altro. Ok. Ok. Ok. Ma il singolo mi sembra più entusiasmante. Quanti ne devo mettere? Scusa. Ah, sono una. Due, uno solo. Lo dovrei in bocca senza ingoiarlo. Non ingoiate, non masticate in bocca. Silenzio, ragazzi. Spera che succeda. La serie. Applaudite, sono le ultime soddisfazioni, diamogliele, voglio dire. Adesso Gianluca. La serie. Ciao. Ti sei pentito di stare partecipando a questa cosa? No, vedi, perché alla fine piace. La cena dei reggini. Vai, questa è masticata. Ma che è così? Un po' sdentato, ma va. La cena dei reggini. Dei reggini, dei reggini. Torniamo. Come ti senti? Carica. La vedo pronta. Vai ragazza, vai! Dai! Un applauso per te. È giovane, quindi... Distribuisci. Distribuisci. Non ce la fa. Non ce la fa più. Si arresta. No, aspetta, muori davanti alla camera che fa visualizzazioni su YouTube. È morta! Può entrare la morte a portarla via. Ed ecco il primo eliminato del Gianni Bunny Contest. L'avevamo conosciuta come Grail e non ce l'ha fatta. Ecco l'anima. Quindi altri 5 concorrenti in gara. Ragazzi, non parlate nel mentre, che è peggio. Silenzio. Abbiamo già la prima vittima, adesso tocca a Bruno. Bravissimo Bruno. Bravissimo. Ma poi questo accento un po' soffice. Peggio, non te lo scegliere, piccolo, dai, ma tra sono tutti. Ma dai, non lo so, ma c'è. Ma c'è, sì. Bravo. Ma c'è, sì. Ha trovato la tecnica lui. Ok. Vai Bruno. Vai Gianluca. Prego ragazzi. E vai subito veloce. Dai. Metti è quello che esce. Avanti. Bravissimo, un applauso, dai. Un applauso, veloce. È al limite, tenetelo d'occhio che... Bravissimo, applaudi. Applaudi. Prova. Guarda, metti in zona. Metti in zona. Provaci, poi dai, mi lasci la mano. Non c'avevo pensato. Dai. Provaci, quello che succede succede. Guarda, anche questo spazio qua davanti. Avanti. Avanti. Bravo Bruno, bravo, resiste. No, no, no, no, no. Bravo Gianluca, bravo Gianluca, ti prende fermamente. Gianluca va forte, allora ti fai la e te che cosa? Aspetta. Ah sì, sì, dai. Non ce l'hai fatta? No, ragazzi, questa era Isabella, ricordiamola così. Non puoi fare niente di particolare per aumentare le visualizzazioni al video. Non lo so. Un'uscita di scena spettacolare. Vomitare, tipo. Ah, riesci? No, però stavo per. Portatela via. Morte? Vomitare e poi. Ragazzi, mi raccomando, siete rimasti in quattro. Bruno, silenzio in sala. Te la do per buona, perché dai, dimmi, dimmi. Non sono così. Tocca a lei. Tocca... Ricorda anche il tuo nome? Cioè, è il nome io che... Al fondo! Avete capito? Alessandro, Alessandro. Che c'è? No, no, okay. La... Morte. Fai qualcosa di spettacolare per aumentare le visualizzazioni. Mi toglio. No, portalo via. Portalo via, Sudan. Che schifo. Sacchetto. Sacchetto. Prego. Vai, ragazzi. No, no, no, non suggerire. Alessandra. Applausi, ragazzi, applausi. Sono rimasti in due. Vai, Davide. Bravo, bravo, una tecnica. Ecco, andiamo. Come ti senti? No, no, no, no, no, no, no. Ragazzi, silenzio in sala. Vai, Alessandra. Panda. Bravissima. Ma poi, avanti. Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. Diamo un attimo alla caramella di decongestionare. Come ti senti? Vai. Bravo. va bene, dai. Allora facciamo così. Riesci a spostarti di là? Facciamo un testa a testa. Un testa a testa anche visivo. Cade un microfono, va bene così. Ragazzi, vi do un po' di tempo per assimilare le caramelle. i zuccheri si sciolgono. E quindi? Lo vedi? Che c'è? Dillo subito! Mettilo di là. No. È fuori, non ce l'ha fatta. Ha vinto lui. Ragazzi, il vincitore del primo Shiny Bunny Contest è... il tuo premio è che puoi mangiare adesso gli altri restanti. Basta. Ragazzi, era la cena dei regini. Se l'aveste seguita su YouTube avete fatto grasse risate. Stai morendo? Fallo in diretta. Io già l'ho fatto. Troppo dolci. Mamma mia. Adesso continuiamo con uno spazio musicale. Assolutamente no. L'altra morte. Continuiamo subito uno spazio musicale prima che i ragazzi muoiano del tutto e a tra poco. 1, 2, 3, 4. Ragazzi, era la cena dei regini speciale Halloween, ci siamo un po' divertiti, abbiamo conosciuto questi giovani artisti regini e abbiamo giocato un po' con loro. E mi raccomando, visitate www.bootyback.it, cliccate la cena dei regini, comunicate con noi, commentate questa puntata e ascoltate le puntate precedenti. Venite a trovare anche su YouTube, dove ci saranno video scottanti di questa puntata. Un saluto a tutti dal Bach e dai commensali e la cena dei regini. Applausi. Ciao.